Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia di Luca Sardo Giambonino dal titolo Riflessioni d'un nobile. Sono solo un semplice normaluomo che cerca appieno la sua strada nel mondo. La nobiltà mia e degli avi miei non ha per me rilevanza alcuna. Non è più il tempo per antichi stemmi e desuete corone. Non cerco onori, gloria, ricchezze, né prestigio tantomeno. Cerco un po' di serenità come tutti del resto. Le antiche gesta le lascio al passato. Io voglio vivere il presente, nel presente, per quanto mi è possibile.